sparisce completamente il punto. Caspita. E quindi diciamo l'inverno è difficilissimo che si creino queste situazioni qui. No, si possono verificare, ma molto meno. Per esempio, quest'anno passato a dicembre ci sono stati alcuni giorni che c'è stata la propagazione, però avviene molto meno, capito? Molto meno. Cioè, è proprio una, diciamo, nel solstizio che entrano le stagioni, no? Che avviene questa cosa qua. Ho capito, vabbè, sono sempre cose buone e cose nuove sempre che si imparano, anche perché è profano, uno la conosce per propagazione e niente, e tenta di tirarci avanti e di conviverci con questa storia qui, no? Però effettivamente non sapendo come funziona uno rimane un pochino così, ma questa propagazione sì, e la conosco perché mi permette di parlare in vari posti d'Italia o del mondo, diciamo. Però il bello è sapere anche come si forma, cioè come funziona, cioè sono cose che effettivamente a me piacciono perché, ripeto, deve essere un qualcosa di fenomenale quello che succede lì su nell'atmosfera. Sì, è un fenomeno. Per esempio, adesso non tanto, ma lo vedrai a te, l'anno scorso, per esempio, il mese di luglio, su tutti i canali, dall'1 fino al 40, c'erano tutte le propagazioni che si mescolano in tutti i paesi, vari paesi. E, per esempio, qua sul 21 l'anno scorso c'è stato il mese di luglio, che era una cosa allucinante, non riuscivo a parlarci, cioè, da montava nel capo. Sì, perché poi quando comincia il bairami, ripeto, non si capisce più il padre col figlio, noi infatti qualche volta abbiamo sconfinato un po' sotto perché lì c'era la pace, proprio quello che ti avevo detto l'altra volta, no? C'era la pace, che c'era la pace, ma penso l'anno passato di luglio, proprio il mese di luglio era, non c'era un giorno, che non c'era propagazione, ma 10, 5, tutto pieno, non c'era, io non ci riuscivo a stare, era una cosa allucinante. Beh, certo, me lo posso immaginare. Avanti, bomboli, che sei zitto stasera. Certo, mi sono voluto appena adesso, perché stavo facendo una cosa. Quel mese lì era micidiale, ma tu ti puoi immaginare che talmente arrivavano furti che molte volte non riuscivo a passare io. Figurati, ma adesso vediamo un pochino come si apre appena, ma anche perché con questo cavolo di tempo effettivamente non si sa bene manco più a che cosa stiamo andando incontro. Adesso ho visto le previsioni del tempo, poco fa ha messo sole pieno qui da noi, ma speriamo che ne abbiano azzeccato almeno una, mi dirpa. Aspetta, volevo fare una prova con te, Giuseppe, con un'altra persona l'ho già fatta. Adesso, vabbè, oggi non c'è molto paese. Quanto ce l'hai il QRM? Massissimo. Massissimo, vabbè, comunque la facciamo lo stesso. Vai sul 10 un attimino. Adesso sei in banda D così, Vai in banda G, spostati in banda G. guardia. Adesso più scalle più sale qua, perché non ero neanche accordato. Come stai al massimale di riguardo? A posto, le solite birra. Questa sera. Gianni? Ah, ti è arrivato di doppio room, se vai copiando Giuseppe. KK. Lecca. Antonello Antonio, buonasera, mi hai sentito? Anche a lei, buonasera, ben entrato. Cappa, ben entrato anche a lei. Mi controllo, come inteso per sente? 1, 2, 3, 4. Ottimo, Santiago 8 in pieno e radio Super 5. 8, e se è poco cane morto, vuoi fare il suo? Tu vai a fare il video per 10. Il mio smitter è che sia una fetta. C'è proprio il becca a aprirmi. Cava, aspetta un attimino, vediamo un po'. Dovrei essere in compagnia di Vera e del buon bombo. Avanti. Eccomi, io ci sono, ciao Antonio. Ciao Vera, buonasera. Mi scuccia da 1, 2, 3 e battono. Antonello, c'è il portantista. Ah, ecco, intervenire sul problema. Di Maria. C'è il portantista, lungo di corna e corto di vista. Ma il corto di corna e stretto di vista. Giuseppe. Avanti, Vera. Io scherzo, non faccio mai, C'è uno che sta chiamando dal sottofondo. Avanti, se ascolti la Sardegna, mi caccia. C'è un capitano, lo sento. Gianni, mi ascolti a mezzo? Ma voglia. Meglio così. A proposito del capitano, adesso mi è venuto in mente... Mi vede entrare il capitano. Ti dico del capitano? Quello di San Giovanni. Ma non mi viene, non mi viene che sia. Di San Giovanni mi ricordo la buona di Madinino, favore. Quelli lì. Sì, mi ricorda, no? Non è San Giovanni, no, aspetta non dare scala, adesso non ricordo più. L'altro giorno mi sono Torre Bravo, quello che se lo ricordo di Pizzaiolo, quello di Thomas. Nino Torre Bravo, lui me lo ricordo, come, veniva a portare il pane da lui. L'altro giorno l'ho ritrovato il Sagittario. Ci porta il pane, ah, quello fa il panettiere adesso, non ne fa più pizza, fa il panettiere. Io la dico. E lo ricordi che aveva l'ecco come ce l'ho io adesso, quando ho modulato? Non ce lo ricordo, io me lo ricordo. Te l'ho detto, ma non mi piace di più. Io dopo l'esperienza che avevo avuto, gli avevo chiesto per una piazza più. Perché che esperienza ha avuto? Io ce l'ho più fatto con un paio di cibo una volta, tanto tempo fa, ti parlo. A te che poi mi ha dato tutto. Non sapevo questo. E comunque è già tipo che eravamo a casa l'una si aggiungava. È quello, sì. Era il periodo quando c'era Marco, Fosco e cosa del genere, frequentava anche a lui, Zoro, tutti a Farradi, poi c'era Gianni Unessore, la figa sera, Bu, sembrava, come si dice, la cupola, che chiamano l'isola dei famosi, Maria. Sono andati a scuola più fatti uno con l'altro e ha mollato tutto. Vabbè, te lo ricordi la signora Gambero? Signora Gambero, sua marito ha messo incinta mia cugina, non sono cose da fare, poi si è allontanato, si è sposato a lei. Sì, te lo ricordo quello, non capisco cosa mi... Marco già era Marco, visto già. Ma ce ne sono state, nene. Per carità, perca. Era ma che c'era di più. Non lo ricordi l'altra volta che mi hai detto che conoscevo a Leontina? Adesso ho capito chi è. Ho capito tutto, dai. Mi sono ricordato di tutto. Ma non è quella lì. Sì, è quella lì, non ti preoccupare. Ah, quella della Comex invece? Sì, ah. Ah, sì, sì. Te la ricordi? Vabbè, non ti preoccupare. Me la sono ricordato dopo un po' di tempo. Quella che lavorava lì? Sì. Come vuol dire, l'altra volta solo che mi passava sempre dalla mente. Sì. Adesso me lo sono ricordato, sì già era già quella lì, al 100%. Come? E vabbè non devi parlare la gara, non fa nulla. Cavagala. E io? Stavo dicendo... Oh, Ali. Se quando prima per i fondini, io facevo il cartello a gamba, io facevo il cartello a gamba sulla modulazione. Sì, non sono tu, vedi un balcone, in casa dove si abbigliava. C'è un bel gente che si incazzava la barattina, di quelli nuovi. Quando entravano su 14 era terreno morto per i cibi nuovi, e se facevamo a pezzi li facevamo. Nuovi li facevamo per entrare. Noi il primo paese che trovavamo era balcone in casa. Sentivo da lui, mamma mia, questo barattino, tutti i frusci sono, esci che muovo tutto. Ma se avrebbe trovato anche lui il pane per i suoi denti, vorrei che aveva pigliato un paio pure a esso. Il che era di testa una volta che entrava, ma strana mia, vero? Ah, guarda, se fai più tutti. Oh, vabbè, adesso ci manca un bel po'. C'erano piccoli cose che c'erano. Sono state, abbiamo pitticciato, li avevamo cercati, li avevamo pure picchiati, ma c'era anche gente come si vede in gamba che ti faceva piacere sentirla. Poi, quando mettono il computer, i telefonini, boh, li fai di tutti. Tipo Don Diego. Don Diego ha avuto fortuna, almeno quello ha avuto fortuna. È andato con quel finocchio, cazzo, e ha diventato 45 appartamenti. Ma dopo se va chiamando i carabinieri, non ti la metti più. Dico, una carina se va chiamando i carabinieri, se povera a furbo. Adesso mi chiama i carabinieri, rimanete sotto. Te la ricordo che c'era le parolacce di scrivere per i giornali porno che leggeva, e poi faceva la risata. Io me lo ricordo. E intanto faceva, c'aveva anche la donna, ci aveva fatto all'occhio, capito? Prima si è fatto il capettato, un po' di anni, quando ha avuto i di là, ha preso e cominciato a uscire con la roba loro e le polacche. A parte quelli di sassanesi che c'erano prima, poi sono arrivate le polacche e ci va comunque la roba tutti, di così per loro. Non solo lui, c'era anche altra gente, Marco, come si chiama, quello che era di fronte ai carabinieri, anche quello. Quello non me lo ricordo. E comunque, ce l'era gente un bel strano. Avanti, Giuseppe. Caffa. Dopo un attento ascoltare, deduco che era una bella bolgia qui dentro. Sai che con quel tuo amico Giuseppe abbiamo parlato della 27, io conoscevo un bel delle persone che conosceva lui. Oh, ma io gli avevo detto, lui sicuramente ti conosceva te tramite radio. Non lo so, aveva nominato il vostrano, comunque il Rago Serpento si riconoscevo, tutti quelli che ha nominato li conoscevo. Mi ha detto che addirittura stampavano quel giornalino del CB, sai dove già? In Piazza Colla Maria. Dove c'era il coso di Sasso prima? Sì, io me lo ricordo quel giornale. Dovevano essere i miei tempi anche quelli. Poi la 27 andava alla grande, c'era su due palazzi, c'erano tre antenne, ogni due palazzi quelle tre antenne, era pieno di antenne, tutta Sassa, Porto Torres, San Giovanni, Di Punti, tutto pieno. Guarda che la 27 ha fatto ancora i cibi di Sassa di me, Giuseppe. Poi hanno preso un'inculata perché hanno comprato magliette e cose di dosa, magliette di ginaggio di Pertamura, un po' quella l'onfio. Prima c'era il club, tutta un'altra cosa. C'era Radio Club Nord Sardegna, via Luzzatta, numero 6 mi pare, forse, o 4, dove c'era Ciclo Filattini, tu non l'hai conosciuta lì, ma io sì, sbaglio. C'era, c'è vero quello. E lì c'era Giulio Colombano, da voi c'era Macalè, tutti quelli vecchi che adesso non si troveranno più. Sì, Colombano ci sono tutti e due, sono ancora vivi, c'è Vittorio anche un altro, siamo in Maria Carica, ci vedo ogni tanto. Ma Giulio non c'è più, era già anziano da allora. Ah, vabbè, quello è una cosa di bello. Ma un bel anziano, avrò avuto già una 70 anni allora, va più. Che il Saturno era morto, poi ha morto un sacco di gente, ne sono morti cittadini, la verità di lì. Ne sono morti parecchi. Vabbè, non è uno perché i cibi che non muoiono. Anzi, avanti, bombolino. Erano altri primi, erano. Poi si è spento tutto, e ora poi va. Però sono rimasti migliori, né? E noi abbiamo riacceso la lampada. La lampada di Aladino, avanti Vena! Ehi, senti un po' così che mi lasciano di stucco. Dicevano quando uno dice le bugie e poi quando dice il vero non è più creduto. Ecco, io mica ho detto mai le bugie. Ah? Cioè no, io bugie non le ho mai detto. Ma sei bastardo dentro e fuori, non dici le bugie, ma sei bastardo dentro e fuori. Ma quello non è dire bugie, mica uno scherzo non è una bugia. È uno scherzo e basta. E qualche volta bastardo, ma vabbè. Ma aspetta un attimino, se uno dice una cosa per un'altra è una bugia, no? Se uno mi dice, già lo sai che mi hanno arrestato, io ci posso anche credere, no? Quindi è una bugia, se non è vero. No, ma quella non è una bugia, la bugia è tutta un'altra cosa. Uno scherzo non può essere una bugia, uno scherzo. Spiegami cos'è la bugia allora. Cosa? Spiegami cos'è una bugia. Bugia per esempio è quando, per esempio, metto le corna a mia moglie e dico che ero un'altra parte ma ci stavo mettendo le corna. E adesso non hai fatto lo stesso, ho detto una cosa che non era vera. Cos'è? Non è una bugia? No, ma quella è una sorta metafora di scherzo. Beh, già, come ti piace, è sempre una profondità di cavolo. Guarda, qua io faccio l'interpretazione parlamentare a Giuseppe, che lui è neutrale, vediamo se c'ho ragione io, Giuseppe. Non ci voglio entrare io. Interpretazione parlamentare, quando una cosa è detta per fare uno scherzo, una bugia o no? Per fare uno scherzo? Per fare uno scherzo è una bugia, sì o no? Quello è uno scherzo. O meglio, uno scherzo, quello non è una bugia. Raccontami lo scherzo che mi hai fatto. Che cosa? Che io non ho fatto niente. Cosa, ma a me mi vuoi dire? Sempre ce la metti, boh, sono un po' bastardo, ma comunque dov'è che la fregai adesso, subito, boh. Ascolta, raccontami lo scherzo che mi hai fatto con Giuseppe Giudicherà, che era. Lo nominiamo il giudice. No, io no, guarda, non racconto niente perché è stato uno scherzo così talmente ingenuo, così povero, non ha nessun valore, dai. Ma non era una bugia, era semplicemente uno scherzo. Capo. Giuseppe. Dica. Hai sentito Gianni, dai un valore allo scherzo, dai, da un parere, dai. Dai valore allo scherzo? Scherzo? Ehi, come lo valuti tu questo scherzo? E quale scherzo? Lo scherzo, lui dice che io gli ho fatto uno scherzo, quello scherzo, dillo, vai, dillo questo scherzo. No, no, dillo, io mi vergogno a dirlo. Perché ti devi vergognare? Se uno scherzo è uno scherzo. Te lo immagini? Immagino la faccia tua e la faccia di Gianni. Di Gianni. Quindi che sa già tutto, sa già tutto, se la sta ridendo. Sì, lo so che lo sa, lo non immaginavo. Ti conoscessi come sei fatto. Lo sapevo che l'avevi già raccontato per farti le risatine. No, io qua non sto neanche ridendo. Se tu ridendo stai. Occhio che ti lascia la traietta così. Tornato, ti rispondo di davvero. Che Giuseppe è una brava persona, non si vuole intromettere in queste cose. Che sono scherzi di cattivo gusto. Dica così. E le magie si tratta a credere sia Bussolano, Giuseppe. Cavagava. E vela, lei com'era? Sconsolato? Riusciamo a rimettere tutto a posto, posso dare un apparecchio, l'altro da un altro, e questo e quell'altro. Invece la cazzo era tutta una buffonatura. Ma guarda un po', guarda un po' che cosa si va a inventare. E poi quando ci avvicinano non crederò mai più. Il fatto è quello, che a fine di inventarsi queste cose però non credi più che dici la verità e magari ha bisogno davvero. E lì per Paolo che cosa da dire in sua discolpa? Non lo faccio più, Giuseppe, non lo faccio più. Così mi piacete tutti e due, la trentina di mano e bacetto della buonanotte su che si rulla. Antonio Antonio, mamma mia, zitto zitto, su che rulliamo Antonio. Fino alla prossima volta. Mamma mia, mi vuoi dire perché per il mio bello? Mua? Mua? Dimmi, non si è assoluta. No, ma non sto girando, sto scherzando anch'io. Sono Gianni. K. Interrogativo, veloce, veloce. Nara. E quell'affare sta rullando? Tuo? No, anche il tuo. No, il mio no. Ehi, io l'ho messo a rullare un pochettino, ragazzo. No, no, il mio no. Mi hai scritturato. Ma con quello lì non rulla niente, no? Come non rulla niente? Quello lì. Perché? Che non va bene. A cosa? Non prendi nulla, Antonio, dai. Vabbè, l'hanno notato più io. Io, Maria, non hai compreso niente. E quello per quello che è stato costruito deve rullare come rulla. Hai voglia se rulla lui? Rulla. Anche. La capoletta di sardine, no? Lo vedi che non l'hai capito. Gara. Ma Antonello c'è sempre? Non è morto, sì, Antonello ci sì. Morto. Antonello, io ho sentito un rumore, mi è sembrato un colpo di fronte con un attacco di sonno. Quello lì era colpo di fronte su un baracchino aperto. Antonello, ma te che avevano fatto spaventare la pinna quando c'eravamo l'ambulanza da pinna? Che si era messo il motoretto. Niente, non si deve essere ritirato là. Quando una volta mi hanno evitato, te ci sono... Ci sei la croce bianca che sta cercando di montare questo e quell'altro. E mi ha portato San Simplice dove c'è Pina, quello delle bare che fa servizi funerari, no? L'agenzia funerari. In questa sede non è vera neanche che bare, accattastante. Sta giù, ma è da mezzo lungo lungo. E una volta uno si è messo nella bar e si è detto, che è questo qui? Ma che tipo, guarda che tipo di bar, questo qui è un bel buono di legno. Ho pigliato, come ti ha toccato, si è alzato la bar e ha zecchito, adesso non mi ricordo chi è. Cavolo, quello sì che è un bello scherzo. Ah, sembrava di aver buono lei, tu. Ma non era Luciano. Sì, la volta che c'ero io, c'era il buono a Cimbrana, l'aveva buono Salvatore Tomasino, l'aveva buono. dentiera, dentiera, dentiera. Ciao, sono Dr. Tomasino, sai chi era? Peter. Era Peter quello lì, quello che è andato, te lo ricordi, col Peugeot, era andato all'ospedale di Ordine, aveva perso il malato. Peter quello che modula. Sì, Peter quello che modula, E che ne aveva perso, scusa? Well, a fare un funerale a Croaghi, c'era tutta la gente dietro. A un certo punto gli esagerai, se ne va dal paese e torna a sassare con la bara. No, non vi grido. E allora no, ma non avrebbe detto male così, mica un bel fuori di campo, mi salvatore. Mister Pan. Cazzo, è un casinista tremendo, non è mai un poco di casino. Cazzo di essere rientrato in funerale di tanto. Sì, allora per capito se non metto il canto, no? Però sono arrivato qua, lo viaggio, non so, nella chiesa, al cimitero, non so quanto ci fosse. Lui si è rotto il canto, per la gente si è andato a Sassari col morto. Vabbè che un tranviere praticamente che beveva. Si fermava ogni sosta che faceva, lo doveva fare la sosta, andava al bar e beveva. Adesso ha abbinato un'imbriaghiera, ha abbinato l'ultra e si è tornato a casa entrare. La barchetta ha sotto il garage e si intende. Ah, tipi aspettando dentro dell'ultimo tram, niente, cazzo, chiamando, le cose. Alla fine ha telefonato a casa e gli ha risposto lui, no? E cos'è? Ma è strano, come dove l'hai messo? Il tra è parcheggiato sotto un caso. E chi te si intende che da dentro la cosa per chiudere il tutto dell'ultimo tratto non si andava per le cucine da mezzanotte non rientrava. Non pensate che fosse successo qualche cosa, capito? Allora la radio non c'era, stai chiamando a casa e ha detto che era parcheggiato, che non aveva grado, già non c'è tutto per rimanere. Allora almeno quelli già non si muovono lui, quando, quando gli devi fare la barba, stanno buoni buoni. Buoni buoni. Sai, lo so, io l'ho fatta a mio padre, l'unico morto che ho fatto la barba. Cappa, quando bisogna farlo e basta. Non lo voleva fare l'infermiera, però visto che non ce la stava facendo, me la faceva male cose, allora poi ce l'ho fatta io. Sono cose che... sono cose naturali quelle, che bisogna, bisogna farle e via, e non c'è niente da fare, niente da fare. Per quello io dico, ma la faccio sempre la barba, così almeno se dovessi morire non c'è bisogno manco di farla. Cosa c'hai? Non morì, e che è successo? Già finisce morire. Cerca di morire al più tardi, perché così almeno rimaniamo insieme. Ha ragione. Adesso mi faccio la barba, non si sa mai che è morto. Che è perdere la sera corrente, già. Adesso già lascio il testamento e vieni tu a fare la barba a me. Anzi, te ci vuol dire spogliatore. Diciamo che viene a crearsi una turbolenza. La giacchetta nera era quella, per fare la perfetta. E come diceva, l'atmosfera che crea, boh. Era vecchia Romagna etichetta nera, i riprendi che crea un'atmosfera. Mamma mia, cara, fin sarà fiammata testa. Anni veri di fondo schiena bruciacchiati, camminando gli esce il fumo ancora. E qua. Ma ricordati la volta che stavi piazzando lo stereo. Dio mio, quella non me la voglio ricordare, che a un certo punto si è rifiutato anche lo stereo di funzionare. Tanto si sono un po' perso le memorie. Figurati tu, Chernobyl, non fare pazzia. Ma tu, Giuse, ma ci credo, una giornata all'inferno, al vento, è freddo, un vento freddo, come c'era, con i portelli aperti. Cazzo, guarda che tanfo, mamma mia, amore, cazzo, si aspetta tutto, tutti di sempre. E non la mona di nostro signore, cosa si aveva bagnato, quasi il bambino ha stato variato. Dili quale cosa, Pierpa? No, ho detto che avevo mangiato, che quando lui mangia le patate e carciofi fa così. Lui dice patate e carciofi, secondo me no. Salve, Giuseppe, in la taraccara. Cappa, cappa. Maledetto che il cacchino era biondo. Maledetto che il cacchino era diventato biondo, Giuseppe. Cappa, cappa, cappa, cappa. Gas e tossico. Tossico. Reso. Di sicuro, Io dico che anche le mutande in quel momento lì si sono rifiutate di riconoscersi. Lavoravo di un medaglione. Che scommate, sorgite le mutande. Cazzo, c'è presente tipo un caricato, un piatto. Cappa di positivo. Positivo. Autografate. Autografate. A far salire di giù il palo. Oh Giuseppe. E cappa. Cappa di positivo. Positivo. Un pochettino, perché lo zampone non mi piace, non mi ha toccato. Ho mangiato solo lenticchie, due o tre cucchiai, ma ne fatto che la mandi di Delle volte già serve, delle volte già serve anche un po' di coso anche per ripulire un po' l'organismo. Quello già serve. E tutta quella roba di, secondo me, legumi contengono qualcosa che ti crea aria nell'intestino. Tu figurati che adesso, fra un pochino, prima di coricarmi, mi mangio due yogurt e frutti di bosco, e te qua. Non hai cenato? Sì, ho mangiato proprio due cose di pasta, e poi ho mangiato due mele 4-5 fette biscottate, adesso mi faccio due yogurt e poi subito a nanna. Così a Roman, se mi cago non mi vedi nessuno sotto le lenzuola. Non ti vede nei baffi, intendi? Ecco. Scusa, relazione. Il nemico in avvicinamento, preparate mortai e la contraerea. Giuseppe, molla e poi sventola il lenzuolo. Ehi, a gambe in alto, no, come tanti cazzo, vi un caglio oggi, un caglio, un fiacco, mamma mia. Con la verità cieca non ti snodi io quella del tuo, Poi, ti sto dicendo una volta, c'era una zanzara, io dico cazzo se ne è pinduta, ho detto no, tu sei mia adesso, chiuso finestra, porta, ho detto da qui tu non esci più. Infatti già l'ho trovata che domani mattina in terra, poveraccia. Altro che Rai, ti li ammazza a secchiti, te qua. Ha abbigliato un ippramo per far, ha detto mamma mia lo rubo subito, ha già detto tu sei fottita. Meno male Gianni già si ha messo le cuffie. Ma ti fa male? Il ginocchio, me l'ho sbattuto la scrivania oggi, stavo facendo una bolla nel magazzino, l'ho sbattuto la scrivania. Vado ad alzarmi. Avevo la sedia che tenta tendenza, io ho convinto che era spostata in fuori, come mi sono alzato ho sbattuto il ginocchio allo spigolo, ma un dolore inconfuttabile. Vabbè, se ne è stata l'escrivania, io pensavo, siccome stavo parlando di scorretti e tosse, pensavo che era una cosa di genere. No, no. Ma te l'ho detto perché come mi sono mosso, mi è venuto il dolore di nuovo. E poi sento lo spray, una pomata, ma non mi passa da scusa. Io invece non ho avuto il tempo di passarmi la pomata, Gianni. Perché? Perché dopo due secondi ho preso l'altro colpo nel ginocchio nello stesso punto. Uno salendo sul camion e l'altro l'ho preso nella pedana, proprio quando sono sceso. Un dolore, guarda, un dolore che... Guarda, solo a pensarci, meglio che non ci pensi. Se lo tengo fermo non mi fa male, se lo muovo appena appena è come che abbia una nocciolina dentro. E poi il ginocchio è un delicato, forma subito il liquido. Quando prendo i colpi delle ginocchia, io adesso qualche cosa, delle siringa di liquido che mi danno i cavalli. Poi è dolorosissimo. In quel periodo ero chiamato banana scivolo, ero scivolato sulla buccia di banana. Azz, brutta roba quella, ma quella. E in via Azzurri, ero con mamma, stavo guardando quella libreria che c'era in piazza Azzurri, stavo guardando qualche cosa a lui che ci interessava, a un certo punto strampo di brutto, cazzo faccio la spaccata e con tutto il peso sono addosso, ho fatto leva contraria sul ginocchio. E lì spaccando tutto. No, spaccato no, ma una distorsione, trauma contusivo, distorsione. La cosa più brutta è che si è formato il liquido, mi si è fatto il ginocchio, infatti mi hanno caricato sul tram e sono andato col tram. A pronto soccorso, si è fermato il tram e mi ha caricato il tram. Allora era tutto diverso, guardate che si fa a distanza. E altri tempi erano prima, dai. Erano veramente altri tempi. Ma io quasi quasi sapete che mi bevo un bitter. Bitter? Un bitter? Vai, non ci credo. Cappa, ne ha comprato due confezioni e le ha messe in frigo. Mamma mia, Giuseppe, che c'è un bitter per fare qua colorante? Infatti già sta lì dove, già sta zizzecco. Ecco perché stavi diventando tutto rosso. Mamma mia, cara cazzo. Se quando entravo in gabinetto, cazzo, leggevo nella tazza Baby San Bitter, sei più facile. E cosa fai? Cosa fai? Sembra quasi che non siamo manco gente di bar. Cosa entri? Bevi un bicchiere d'acqua? Adesso mi sta attaccando il succo d'ananas. Chissà che non mi cresca in petto il coso dell'ananas. Dai, ma caso Ruizzo. Chiediamo ai bimbi adesso, così si chiamano quelli che bevono al mare. Ehi, bimbi, come si chiama? Senta, mi sono convinto, un succo d'ananas, prima che fa un succo d'ananas, sto costando 2 ore e fa puente qua. Che da poi diciamo dei bimbi, no Giuseppe, si divise di lui e va sull'adulto. Io mi ricordo quando ero ragazzo, no, sentivo questi che entravano al bar, no? Lei cosa prende? Io un bimbo, non ne comprendia mai nulla di chi si occupa. Ma di quasi mi ha detto quando entriamo al bar facciamo i fighi, no? Cosa dici? Mi dia un bimbo. Tu che te ne so, i cibi dolci, come se solo come te l'hai esagerato. A me lo sai cosa mi piace, Giuseppe? Dimmi. Di sapore, l'anice. Ah, l'anice, a me come odore mi piace, mi piace un bel profumo, e rimane dolciastro come profumo. Sambuca mi piace. Mamma mia, quello è un bel nauseante, rimane un bel pastosa. Commenti mi raggio un po', ma a giumano mi nasce nei rocci. Che cappa, quello è un bel forte, quello penso che sia intorno agli 80 gradi, poi non me ne intendo. Porcheria. Cosa? Il baby. Super alcolici sono quelli. A me invece quello che mi hanno fatto assaggiare un'estate era la vodka al melone. La vodka, ti piace? Quella al melone però, è forte, però lascia un buon sapore in bocca. Attenzione, diario 45esimo, ascoltate quella lì, grandi masturbatori di antenne, papà. Questo tipo c'aveva i bicchierini dentro il freezer insieme a quel coso. Ma ti ho detto, ma non si spacca la bottiglia? E lui dice di no. Cosa mi ricordo già? Allora, io l'ho capito fatto, mai avuto tre come sul fuoco, no? Ma tu lo accendi qui, prendi la mano, gliela metti sopra, gli togli l'aria e sei ancora di tre in mano, e mi scettinare e poi c'è un colpo, quattro non sono mai avuto, non c'è più niente, sarà bui, tocco, guarda come lo scendi. Ho già, io a casa ho una bottiglia di Glen Grande, mi pare che si chiami così, e ce l'ho 15 anni. Se vede a casa ci sono tutti i liquori ancora sigillati, non ne beve nessuno qua. C'è anche la sabuca tra l'altro, qualche giorno la assaggio, ma solitamente rimane lì. Si chiama Glen Grande. Una cosa così mi pare che hai scritto nel coso. Ed è tutto sigillato qui, eh. Ho bottiglie anche portate da fuori, dall'estero, con whisky, con coso, mille storie, sono tutti sigillati. Addirittura mi hanno portato una bottiglia dalla Russia, si chiama Il fuoco dello zar. Ma questo è terribile. Bella, con bellissima come bottiglia. Io ho bevuto il liquore della suocera. Anch'io quello che fa mia suocera a casa, ma è leggero. No, no, si chiama così, blu. K-K. Me l'aveva fatto gustare Torino Kawasaki. E come? Un bel forte, da creparti. No, no, così è esagerato. Quello è farsi male, allora. Guarda, come l'ho deglutito Giuseppe, mi sono sentito il fuoco addosso, ma una goccetta, un goccio me l'ho fatto mettere. Figurati, allora quello magari se gli avvicini anche il fuoco accende, quello doveva essere anche un puro sicuramente. Non è cosa a voi, no, anche io whisky non lo sopporto, non sopporto le cose secche, mi piacciono più dolci che secchi, sia anche gli spumanti mi piacciono dolci. Tanto è vero che ho una bottiglia di Pino di Pino, non so da quanto tempo, che me l'aveva regalata una cliente, ma non ne ho mai aperto. Stasera mi hanno regalato una bottiglia di, aspetta, come si chiama, quello che fa una bosa, come si chiama? Bosa? Non lo so, non me lo ricordo, lo so ma non me lo ricordo. Una bottiglia di vino, Malvasia, può essere, però non ne sono sicuro. Sì, può darsi, penso che sia Malvasia, ma a me non mi piace, manco quello lì, Malvasia non mi piace. Io ho ancora due bottiglie di cosa, di moscato, di sorso, va bene. Io quando sono rientrato. E sono andato a rifornire e ho trovato un amico, no, che stava rifornendo. Ho detto, vieni che ti faccio un regalo, vieni, casa e poco era contento. Davvero? E cosa me la portavo a casa a guastarsi? Almeno quello se la beve. Ecco. Oh, liquori secchi, i vini secchi non mi piacciono per nulla, ma proprio niente. Non assaggio le macchie che non mi piace. Eppure lo champagne, per dire, io ho avuto l'occasione di berre tante volte, ma non mi piace, l'ho gustato. Ma questa qualità è più buona di quello che hai bevuto tu. Gusta questo qui che si chiama Don Perignon, non so cosa. Lo gusto la matessicosa. Avanti, fatti. Buonasera. E cos'è questa voce stanca? Stanco sono. Mi sono trovato giusto per salutarvi. Vedete, mi ha rotto a nanna. Alleanto, dite la regunta, Zanacchi Gando, Ruite. Buonasera. Ciao, Giuseppe. Mi hai sentito? Chi c'è per questo? Gianni, tu? Allora, ci siamo Gianni, io, Vela, e Bombolo e Luca. Pappa, sono Torino Vela, Torino Bombolo e Luca Riello. Va bene, ben ascoltate a tutti. Ciao. Che bel finito, eh? Okay. venire, perché sabato lavoreremo tutto il giorno, giusto per buttarla a terra. Ah, capito. Per finire, proprio l'ultimo. Esatto, lavorare tutto il giorno, giusto per scapparmi da terra. Cascia suinare. Cascia suinare, no. Se no guai. Non abbiamo lavorato per la mano. Speriamo che non siate che si male pagatori, che facciamo tutta la paglia ombre da buchi. No, no, no, è abbastanza conosciuto, già, non ti puoi pagare, perlomeno, così si dice, proveriamo. No, ti auguro di sì. E cosa ci compriamo di bello, di baracchino? Adesso vediamo, sono in base ai soldi, compriamo un bel baracchino. Cavagava, ma che vuoi? Se si riesce, sì. Allora, facciamo una bella stazioncina. Si può andare qualche. Allora, prendo nuovo, prendo nuovo. La roba nuova. Ma non lo trovi. Già si trova. Non vado più. E di onde? Allora, il 4.40 e 140 non li fanno più. Ok. Le nuove generazioni, se c'è. Nel 27 non escono come quella, avanti il break. I 6 a 2. Torre, dai, ciao, Torre, ben sentito. Ciao, ciao, Torre, ben sentito. È doppio non da questa parte. Ciao, Torre, non fa qua. Archetto. Poi c'è Vela 1, avanti. Capo, io lo sento i quarti, ne approfitto per chiudere la guardia, una buonanotte a tutti quanti, ciao Gianni, Giuseppe, Franchetto, Luca e tutti gli altri che ci sono all'ascolto, dai, ciao ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, vera. Ciao Pierpa, ciao. Ciao Pierpa, ci sentiamo alle prossime, dai, anch'io fra 20 secondi stacco, che sono anche a piedi sino a venerdì e mi alzo chizzo chizzo domani. Pietro, buonanotte, alla prossima. E anch'io, dai, vi saluto perché sono stanco, crepato, non muoto, crepato. A domani, ciao ciao a tutti. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, ci sentiamo. Buon 144 e a presto, dai. Avanti, bomboli. Beh, signori, mi sa che è arrivato il turno di Giuseppe. Salutarvi, augurarvi, e cosa vi posso augurare? Tutto quello che volete, ci sentiamo presto. Buon 144 quando lo fate, Giuseppe va in QRT e niente, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao Giuseppe, ci sentiamo, buonanotte anche a te, avanti, buon. Ci sentiamo, anche a te. Chi è rimasto? No, siamo rimasti in due. Che quello dici, vi aspetta, avanti Tore. K. E anche Giuseppe. Come? Bene. Allora. capito? Ehi, la sera fanno pagare sui 500 euro, 450, 500. Paga. E ma tanto cosa se ne fa dell'apparato HF? Ci sono apparati che vanno molto meglio di quello lì adesso, dei 27. Guarda, se tu al computer vai a vedere l'S980 della Magna, fare con le 980 gamma gamma il nuovo della Magna, ma vabbè, perfetto, non le bande radioamatoriali di brutto se è l'antenna, e beh, già lo so già lo sono il giorno frequente su tutto quanto come funziona, ma Falchetto è alle prime armi, a quelle con gli apparati sotto, cioè sono cose complicate, no? Qui non sa magari le frequenze, magari se ne va sugli 80 metri e cose, senza sapere che non si può parlare di buona bambina, capite? È quello che c'è. Ma riprendi Momo. Non lo sento io l'amico. Comunque, tutti gli apparecchi che stanno facendo sono fantastici, sono, vanno veramente bene, il Magnum, tutti questi apparecchi nuovi che stanno facendo vanno alla grande, anche la Intec sta facendo buoni apparecchi, finalmente, tipo questo 550, già come modulazione, poi c'è quello che c'è più prestazioni, c'è quello che ne ha di meno, però vanno bene dalla casa, su da subito, ed è una cosa buona che li stiano costruendo così. E lo sai cosa c'è? Che io preferirei sempre comprare per dire un Magnum che prendere un 140, un 440, che hanno praticamente i componenti che sono usurati, c'è poco da fare, dal primo che ti parto. Se euro c'è un 140, 440 l'ho usato da diciamo proprio frazzando. Certo, è un po'... ma sono radio un po' vecchie che magari funzionano bene fino a un certo periodo, poi, cioè, magari, cioè come, ogni tanto devi portarle anche a farle regolare, eccetera, eccetera, a metterle a puntino. E diciamo che i componenti sono tutti già sfruttati. Poco da fare, non è che lo compro un apparecchio nuovo, quanto è la stessa, sì, un bel apparecchio, senza un po' di dubbio, ma e così i componenti sono già stati usurati da chi ce l'aveva prima. Questo è il nuovo stesso, già 7 mesi dovrebbe avere, dai, preso a Natale, quanti mesi ci sono passati, neanche 7 mesi. Più nuovo del tuo. Ma diciamo che è nuovo, per quello che uso sempre questo, anche se uso anche l'altro e lo fallo acceso un po', però in prevalenza preferisco questo perché è nuovo, no, non mi delude, dai, penso. Direttore, pare che ti piace come esce. Sembra di dubbio, sì. Ma diciamo che questa qui è la mia chicca pipirizza. E anche io, forse anche di più. In 35 anni che sono in frequenza ne avrò avuto molti di più. Magari sono buono. E c'era Sommerka in pace, a me mi piacevano molto le stazioni in base, io sono sempre stato appassionato di stazioni in base, mi piacciono perché i veicolari, ma ne vogliono troppo di quegli apparecchi, ne vogliono troppo. Ti ripeto, preferisco prendermi uno nuovo di zecca, pagarlo lo stesso tanto che prendo quello la seconda mano, ma ce l'ho almeno nuovo. A pagare. Antonello, che fine ha fatto? Non so se tu lo conosci. Capito. Antonio. Quello non sento io, no. Ma lui a me mi sente. Sottore, lo senti, Antonio? Va. Senti, io non so come il bombolino, l'altro. Io come ti arrivo lì? 1, 2, 3, prova. Ma tu che antenna stai usando? Ma gamba, sono un buon elemento, ma c'è poco da fare, c'è gente che c'ha anche 30 anni. Ma gamba, Antonio, riprendi, io me ne sto andando a letto, dai. Ci sentiamo, vi saluto cordialmente e vi auguro una buona notte e una buona giornata per domani, dai. Doppio lungo, rete esecutivo a Centro Mendi. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte a tutti.